La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buongiorno e buon anno a tutti, anzi buon pomeriggio, buon anno, buon pranzo di Capodanno finito, buon riposo, speriamo non vi addormentiate troppo, ma noi cercheremo di non farlo, di non farvi addormentare. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, speciale Capodanno, una puntata davvero speciale perché vi porterà a fare un giretto nel 2014 del cinema, insieme a una amica, un ospite che è qui con me, e a cui auguro buon anno, ovviamente. Buon anno anche a voi. Buon 2014 a Luisa Morandini, una donna un dizionario, che è qui con noi. Una donna mezzo dizionario. Mezzo dizionario, insomma, ma voglio dire, parte importante. Parte. Di quelle che sono state anche, che sono le nostre scelte cinematografiche quando ci si tratta di vedere un vecchio film, andare a vedere qualcosa in un video. Allora vai lì, spulci, guardi il Morandini e vedi detta cosa c'è la scritto. Bibbia. Vedi che cosa ha detto il maestro Morando oppure la professoressa Luisa che è qui con noi. Allora, la puntata è semplice nel suo interesse, penso e spero. Cioè quello di raccontarvi a partire dai giorni che cominciano oggi, cioè da questo gennaio. Pensate, proprio oggi ci sono uscite cinematografiche abbastanza abbondanti. Una volta non si usciva a Capodanno, invece adesso vuoi che Capodanno è metà settimana. Non so detto... se era un vizio di famiglia. Noi per tradizione, superate le sbornie, siamo sempre andati al cinema. No, andare al cinema sì, ma uscite nuove l'uno di solito si aspettava tipo il 6, il 7. I film di Natale erano anche quelli di Capodanno alla sì. Fine, sono no? cambiate invece... in tutto le uscite. Un tempo uscivano esatto. In altri modi, adesso escono tutti un giorno alla settimana e poi escono anche l'uno. Escono l'uno escono anche film. Oggi abbiamo film interessanti. Sì. Abbiamo The Butler, che è la vera storia di un maggiordomo della Casa Bianca di Lee Daniels. Abbiamo un bel film come American Hustle, che è un notevole. Insomma, siamo in zona Oscar qui, mi sa che tra qui, dietro i candelabri, si stia muovendo qualcosa che ci porterà dritto dritto alla notte delle stelle. American Hustle mi è piaciuto assai, mentre su The Butler ho qualche riserva, sono sincera, è troppo buono, è troppo sinceramente polaccato, democratico, un po' pieno di tutti i luoghi politically comuni correct. Della correttezza politica ci sono, tutti un antirazzismo buono che poi un po' diventa mieloso. Invece American Hustle è cattivo e mi piace molto, mi sono proprio divertita. È un film, lo ricordiamo, che racconta siamo negli anni 70 negli Stati Uniti, che non sono provincia ma non sono neanche la super metropoli, un mondo di sotterfugi, di corruzione, di indagini e anche di mezzi che si devono mettere a disposizione delle indagini, che non sono sempre quelli più ortodossi ma che portano a casa un risultato importante anche grazie a un cast di attori eccezionali. Notevole in ruoli diversi, perché Christian Bale è quasi irriconoscibile, non fa il bello, non fa il tenebroso, è un personaggio strano. Tra l'altro è anche uno di quei film di, ammettiamolo, che il giorno dopo dice aspetta un attimo, devo ricordarmi la cos'era trama. Cos'era successo? Dunque, cos'è successo? Non mi ricordo più niente. Fare la scheda è difficilissimo, la trama devi non è un film facile da raccontare. No, c'è no. Una persona che fa questo e dice questo, non è esattamente... Cioè è più un film di atmosfere che ti restituisce un po' anche un'epoca, se vogliamo, pure col senso del genere che ha, però riesce a essere universale. Sì. Anche nella ricostruzione delle scenografie, nei costumi, no? Jennifer Lawrence esplosiva, sempre più bella e sempre più brava. Può far qualsiasi ormai cosa. Ormai tutto, da Hunger Games, American Hustle. Bradley Cooper, che comunque funziona, è simpatico, piace e ha il suo carisma. E poi Robert De Niro, che ultimamente secondo me si sta un po' riprendendo dopo una serie di scelte sbagliate. Sì. Questa sua terzo tempo della sua carriera artistica. Qui, per esempio, a me nei panni di questo padrino... però cattivo, senza scimmiottamenti, molto, molto efficace, e mi è piaciuto molto. Anche a me. C'è anche un altro film in uscita, adesso poi ce li abbiamo uno per volta. Allora, comunque quindi, Christian Bale è strepito. Esplosivo. American Hustle, quindi possiamo dire un po' il nostro consiglio, ma noi di questi film ne parleremo poi sabato alla Rosa Purpurea con tutte le clip audio, eccetera. Qui vogliamo un po' più introdurre quello che sarà il 2014 al cinema. E fra le uscite, così ci sentiamo anche la prima clip che abbiamo preparato, fra le uscite di questo inizissimo di stagione, stiamo parlando proprio di questo... di questo Capodanno c'è un titolo che per noi che non abbiamo più solo 40 anni, ma forse non ne abbiamo neanche 50, è un titolo mitico, Capitan Harlock. Mi hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Io sono Capitan Harlock ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro. Che figo questo Capitan Harlock con la benda sull'occhio. Tra l'altro già era bello nel cartone animato, tante ragazzine si innamoravano di questo personaggio. Figurati adesso in semi carne e ossa, perché questo è fatto con quella tecnica motion capture che di fatto anima la persona vera e quindi ha delle sembianze quasi umane pur essendo un film d'animazione. Sì, non devo dire che non era il mio fidanzato Capitan Harlock quando eravamo giovani, certo. Avevamo dei fidanzati. Chi era il tuo fidanzato? Voglio saperlo adesso. Il numero uno dei miei fidanzati è l'uomo mascherato. Ah beh, ma tu affondi, voglio dire, proprio nel classico. Sì. E poi dopo l'ho lasciato per Rip Kirby. Ah beh, te la sei giocata bene, devo dire. Grazie. Insomma, noi amavamo Venusia per un particolare tecnico che adesso non sto a dire. Allora, andiamo avanti. In questi giorni sempre troveremo Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club. Il 9 gennaio arriverà il remake di Carrie, lo sguardo di Satana. Io ho sempre un po' paura dei remake degli horror. A volte sono dei buoni film, non superano quasi mai il maestro, a volte sono delle ciofeche. Spesso capita. No, per me sentire parlare di Carrie, tutte le volte mi ricordo un aneddoto dell'epoca in cui è uscito, che mi telefonò un compagno di scuola dicendo: è uscito un film, deve essere un western, si chiama Carrie, lo sguardo di Sartana, andiamo a vedere. Ecco. Non era un western. Per cui tutte le volte che lo vedo dico: ecco Carrie, lo sguardo di Sartana, adesso lo rifanno. Esatto, lo rifanno il 9 gennaio, così come il 9 gennaio arriva in sala il primo film italiano importante di questa stagione, ovvero Il Capitale Umano di Paolo Virzì. Cosa c'è da aspettarsi dopo che Paolo ha diretto il Festival di Torino? Non lo so, io sono molto incuriosa. Oggi lo vediamo. Oggi lo vediamo, sì. No, l'abbiamo visto? No, l'abbiamo visto. No, non lo so. Beh, Virzì degli italiani riscuote tutta la mia simpatia nell'originalità, però diciamo come film ne amo più altri. Virzì è più amato da Morando, è uno dei sai che ci dividiamo le certo. Virzì è uno dei suoi pupilli, è uno non dei suoi seguiti. Andiamo avanti, 16 gennaio la New York degli anni 60 by Fratelli Coen, presentata a Cannes 2013, Cary Mulligan, Justin Timberlake per Inside Llewyn Davis. L'hai già visto? No, non mi mandano a Cannes. Mi mandano solo a Venezia. Non ti manda a Cannes. No. Ti tiene lì. Mi tiene lì. Ce ne faremo una ragione, ma i Coen vanno sempre visti. Questo per legge proprio, cioè bisogna farlo. 16 gennaio, i fratelli Coen, il nuovo film, e anche il nuovo film di George Clooney. Ma pensa che settimana sarà quella lì. Cioè, ma dico, ma anche la distribuzione, ma due pesi così, non vuoi magari metterli in due settimane diverse. Però, nuovo film di George Clooney su un gruppo di storici dell'arte durante la Seconda Guerra Mondiale che vuole salvare le opere d'arte dal nazismo. La formazione, quasi un dream team, è George Clooney, Jean Dujardin, Kate Blanchett, Matt Damon e Paul Giamatti. Notevole. Poi George Clooney, da bello del ER, Medici in Prima Linea, si è rivelato sempre di più un ottimo regista. Assolutamente. Più interessante come regista che come attore. Cioè, voglio dire, sì, è bello, è bravo, senza essere un fenomeno, ma... è vero che secondo me lui incarna lo spirito del cinema classico americano rivisto nei nostri anni, se vuoi. E poi c'ha questa una dignità sempre di fondo, sempre, no? Da spingere con una profondità, un certo impegno politico, assolutamente. Quindi The Monuments Man, questo è il titolo del film, non ce lo perderemo, di George Clooney, il 16 gennaio. E sempre il 16 gennaio io qui, ragazzi, io ho tenuto il trailer lungo, ve ne faccio ascoltare tutto quello che possiamo, perché quando c'è la coppia Stallone-De Niro, ovvero Rocky contro Toro Scatenato, che tornano sul ring per combattere, beh, questo è il grande match. Certi atleti sono nemici giurati, ma la rivalità più accesa è stata quella fra due pugili, Razor e Kid. Hanno combattuto solo due volte, ma lo spareggio non si è mai tenuto. Oggi annuncio il mio ritiro dalla box professionistica. Una società vuole lo spareggio ufficiale, vi danno 100.000 ognuno. Non posso stare nella stessa stanza con lui, non ci sto. Che significa non ci sto? Guarda questa cavolo di casa! 30 anni! Sì! Rimettiti in forma. Luisa, a me fa morire da ridere una cosa. Mi piace la vena che hanno preso questi grandi, come questi grandi, queste grandi icone, magari prima che dei grandi attori, è capitato a Stallone, a Schwarzenegger, eccetera, cioè di prendersi veramente finalmente in giro. E quindi di rivisitare un po' anche il loro passato cinematografico alla luce di questa ironia, no? Che lo fa diventare molto gradevole. Sì, molto, molto. E poi è divertente perché in realtà nel passato non accadeva. Cioè, i miti... Certo. Grandi attori ci sono sempre stati, però nessuno è arrivato a auto-ironizzare se stesso, sui propri personaggi, cioè, mentre invece adesso lo stanno facendo ed è molto gradevole. Il grande match vede appunto De Niro e Stallone, ex pugili, richiamati a un ultimo combattimento che per derimere un campionato che di fatto non è stato mai assegnato, e allora torneranno sul ring. È evidente l'ironia dalla premessa, ovviamente, però è molto molto divertente. E un'altra caratteristica che mi sembra già di poter tirar fuori di questo 2014, Luisa, è la pregnanza dei cast, cioè quanto continuano a contare. Una volta avevi due attori da locandina, poi qualche nome scritto in piccolo. Tu pensa al prossimo film che abbiamo già visto, io l'ho visto a Torino, Las Vegas, ha aperto il Festival di Torino, una commedia per il grande pubblico, ovviamente, anche piena, se vuoi, di concessioni, però anche molto divertente. Cast: Robert De Niro, nata vuota, Michael Douglas, che è anche nei Candelabri, Morgan Freeman e Kevin Kline. Sì. A parte Kevin Kline, io sono contentissimo di averlo rivisto sul grande schermo, perché è un attore che amavo molto all'epoca. Beh, Last Vegas, questa sorta di notte da leoni della terza età, è assolutamente ha dei divertente. Momenti esilana. Sì, ma è divertente anche questa cosa di cercare di metterli insieme. Poi ha gruppi di sembrano gruppi di amici che si ritrovano nei gruppi omogenei. Interessante. Funziona chiaramente anche per la cassetta, come si suol dire, perché credo che la gente è molto attirata all'idea di vederne gruppi di attori. Sì, secondo me questa la lettura è questa. Proprio questa, hai ragione, cioè per mandare la gente in sala tu oggi hai bisogno, al di là dei titoli, al di là dei temi, hai bisogno di qualcuno che ti prenda per il colletto e ti porti dentro, e forse questi sono i nomi giusti. Sono anche contento perché qualche anno fa sembrava che gli attori over 50-55 facessero quasi fatica a lavorare, e invece guarda adesso anche con Osage County, con la Roberts e Mary Streep, no? Mi sembra che gli si stia ridando delle opportunità importanti. Sì, farò una piccola critica. Faccia. Per l'ennesima volta, cioè, molto più i maschi comunque. Sì, Beh, però Roberts e Streep mica male. Sì, però uno. Cioè, il film invece... con quartetti di grandi attori, di grandi divi, ce ne sono tanti. I ruoli femminili dopo una certa età sono comunque sempre, certo. Poi comunque fanno le nonne, fanno le sì, zie, esatto, a meno che non facciano quello, sì, chiaro. Invece qui sono proprio protagoniste di una, sì, di un film. Allora, 23 gennaio Last Vegas, 30 gennaio Michael Fassbender torna al fianco di Javier Bardem per The Counselor di Ridley Scott, e quindi è un altro ritorno importante. E anche qui con un bel gruppo. Sì, anche qui Brad Pitt, Penelope Cruz, Brad Pitt neo cinquantenne, insomma, auguri anche a lui. Sì, da poco. Cameron Diaz, Natalie Portman, insomma, ce n'è un bel po' di nomi anche qua. E allora, ed è il ritorno di Fassbender con Scott, sì, dopo Prometheus, no? Ritorna a vivere la storia eterna di Frankenstein in I, Frankenstein, con Aaron Eckhart, stavolta nei panni della mitica creatura di laboratorio. Arriva anche, adesso ci sentiamo il trailer, quello che secondo me è il film più atteso di questo primo mese, che è The Wolf of Wall Street, una sorta di misto, se vogliamo, fra il grande Gatsby e Gordon Gekko. Non vedo l'ora di vederlo. Grande protagonista Leonardo DiCaprio. La firma è quella di Martin Scorsese. Mi chiamo Jordan Belfort. L'anno in cui ho compiuto 26 anni ho guadagnato 49 milioni di dollari, che mi ha fatto molto incazzare, perché con altri tre arrivava a 1 milione a settimana. Tutto questo è legale? Assolutamente no. Stiamo facendo più soldi di quanti ne potremo spendere. Non lavoriamo per te, Bella. Hai i miei soldi appiccicati sul culo. Tecnicamente lavori per me. Siamo a febbraio, anzi, prima di febbraio, diciamola una parola su questo film che io non ho ancora visto, ma insomma il trailer è eccezionale. C'è un linguaggio che mi sembra davvero innovativo, anche per Scorsese. Non è che tutte le ultime cose fossero riuscite col buco. No, però questo, il trailer attira. Poi ci sono dei film che il trailer è migliore del film. Però non credo che sarà questo caso. No, penso di no. E DiCaprio è un attore che bisogna riconoscergli ha avuto un'evoluzione notevole, dal giovane belloccio adolescente che faceva impazzire le ragazzine, si è cioè è cresciuto come attore ed è notevole, anche lui è uno che può fare qualunque parte. Assolutamente, e viene molto utilizzato dai grandi nomi del cinema ormai come attore quasi feticcio. Febbraio, dicevo, si apre come sempre col Festival di Berlino. Voglio dire che il film d'apertura è l'attesissimo The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, e quindi insomma quello dei Tenenbaum, di Steve Zissou, eccetera, cast all star anche in questo caso, alcuni nomi: Ralph Fiennes, Frank Murray Abraham, Matthew Amalric, William Dafoe, eccetera, eccetera, dei catere. Non vado neanche a Berlino. Vai neanche a Berlino. No. Morando non ti manda neanche. Non mi manda lì, neanche a Berlino. Miseria, ragazzi. Tiene in casa. Dai, scappa di casa come Scapperò. Le ragazze degli anni 60. Esatto. E 6 febbraio 2014, All is Lost, il ritorno alla regia di Robert Redford, anche questo presentato a Cannes, ed è un film interessante perché è una sorta di lotta per la sopravvivenza in mezzo al mare di questo uomo che rimane su un veliero con la vela strappata, la barca che fa acqua, insomma è una sorta di vita di Pisi senza la tigre, o in solitario, o in solitario, esatto. E poi il 20 febbraio un titolo che rappresenta forse il più importante family movie di questa prima parte, anche se di fatto è più la storia della costruzione della, di un grande capolavoro, ovvero di Mary Poppins, Saving Mr. Banks, scusate, il film sulla nascita di Mary Poppins, con Tom Hanks che fa Walt Disney ed Emma Thompson che fa l'autrice del libro su Mary Poppins. Abbiamo la clip. Vento dall'est, la nebbia è là, qualcosa di strano fra poco accadrà. Signore e signori, abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Benvenuta, signora P.L. Travers, nella città degli angeli. C'è come odore di... gelsomino. Varichina. E sudore. Vi presento l'ideatrice della nostra amata Mary. Poppins. Mai e poi mai solo Mary. E dov'è il signor Disney? Mary Poppins ha segnato la vita di tutte noi. Assolutamente, di tutte voi, ecco, perché sì. Io con da maschietto diciamo meno. Un po' meno. Sia come libro prima che come film, e Julie Andrews strepitoso. E quindi insomma, interessante vivere questo dietro le quinte, un po' come accade con il film Hitchcock che ci raccontava il dietro le quinte di Psycho, la nascita di un capolavoro, il cinema che interroga sempre di più se stesso e le sue storie nascoste per portarle al grande pubblico. Il 6 febbraio arriva anche Robocop. Non so se sei in ansia, ma poco, però lo dormo, diciamo perché ci dormi sopra. Lo e però invece forse ci dormiamo un po' meno su questo piccolo capolavoro che è Nebraska, 20 febbraio, un viaggio padre-figlio, padre con evidenti segni di anzianità avanzata, di Alzheimer, di alcolismo, eccetera, e figlio che cerca di tenere in piedi la baracca, però che cerca anche di far vivere un sogno a questo vecchio. Il film appunto è Nebraska, la firma è quella di Alexander Payne. Hai detto allo sceriffo che stavi andando a piedi nel Nebraska? Esatto, a prendere il mio milione di dollari. Questo è Buddy Grant. Siamo autorizzati al pagamento di un milione di dollari a Woodrow T. Grant di Billings, Montana. Quanto credi che camperà ancora? Che c'è di male nel fargli vivere la sua illusione per un altro paio di giorni? Un eccezionale Bruce Dern in questo film, davvero. Invecchia. Però bene. Cioè, bene, nel senso sì, che sì. Qui è uno straordinario. Fresco, ricorda molto il film di Lynch, ti ricordi? Adesso non mi ricordo più il titolo, così a botta calda, ma dove c'era questo vecchio che col trattore risaliva la Real America, quella degli stati centrali. Ci ricorderemo anche come si intitola durante la pausa, perché noi, come dire, abbiamo analizzato tipo 100 film per questa puntata. Nebraska ricorda un po' quelle atmosfere, e soprattutto è struggente il fatto di raccontare il desiderio di regalare un sogno evidentemente farlocco, però che per una persona di quell'età può essere davvero anche una piccola chiave di realizzazione, no? Ricordiamo anche che il 20 febbraio esce il disaster movie di Paul Thomas Anderson, Pompeii. Che è molto atteso, Pompeii sta avendo una, tranne che in Italia dove la curiamo un po' poco, ma sta avendo una, come sappiamo bene, sta avendo un boom di interesse nel mondo anglosassone, tra mostre, film, eccetera, davvero straordinario. Sono molto curiosa, anche perché è un genere, vabbè, non il disaster movie, ma il The Straight Story, titolo originale del film di... mi è venuta in mente quella originale, adesso mi verrà anche quella italiana. Perdute? No. The Straight Story era una storia vera. Il titolo italiano fu Una storia vera, storia titolo vera. Banale, sì. È vero. Però The Straight Story era la storia vera, di questo film di David Lynch. Grazie, grazie. La memoria ci arriva ancora un po' dopo, ma ci arriva. Allora, Pompei mi interessa. Non so, cioè, disaster movie è un genere che vabbè, va sempre. Però la firma di Paul Thomas Anderson. E poi il genere che è più vicino, diciamo, al Sandaloni di una volta, no? Il film in costume. Anche quello sta tornando. Ci sarà Hercules, ci saranno un sacco di film di quel tipo. Era divertente. Assolutamente, assolutamente. Il 20 febbraio tutti questi film faranno compagnia a Jack Ryan, l'iniziazione, quindi torna Jack Tom Ryan. Clancy con il suo personaggio, e siamo al mese di marzo. Parlavamo di Sandaloni, 300, L'alba di un impero, ancora dal fumetto di Frank Miller, e il 6 marzo Tom Cruise, soldato in un film di fantascienza fra Full Metal Jacket e Starship Troopers, che si intitola Edge of Tomorrow. Vado, salto al 13 marzo, metà marzo. Stiamo correndo. Sento già un pochino di caldo in più, di tepore primaverile. Basta dirlo, sì, che sì, già lo sento. Ma perché? Perché Keanu Reeves Samurai in 47 Ronin, ce lo vogliamo vedere o no? Quelli che ti hanno reso schiavo hanno conquistato la nostra terra. Montagne di cadaveri non riusciranno ad ostacolarci. Crediamo che tu sia l'unico che possa aiutarci. Il loro esercito è infinito. Noi siamo 47. Se decideremo di farlo, non torneremo più indietro. Senti, io quando gli occidentali si mettono a fare i samurai o queste robe qua, di solito mi fanno ridere. Però dipende. Mica sempre, dici tu. Sempre. E comunque e poi sia. Keanu Reeves, io lo rivedo volentieri. Anche da samurai. Sì, soprattutto da samurai. Era un po' marginalizzato. Come mai? Dove sarà finito? Glielo chiederemo una volta che lo vediamo. E voglio dire una cosa. Dicono, io non l'ho visto ancora, dicono che in questo film abbia un 3D che rivoluziona il concetto di 3D. Io non sono un grande amante del 3D, neanch'io. Anzi, mi sembra che non serva a niente. Però soprattutto nei film non di animazione. Esatto. Sempre. Detto questo, però, dicono davvero che le tecniche di ripresa di questo film siano davvero quindi rivoluzionarie anche per il 3D. E quindi non ci resta aperti che aspettare. Aperti e disponibili. Noi siamo lì, lo aspettiamo. Poi ve lo diremo qui. A questo punto diamo la linea alla regia, perché siamo arrivati alla fine di marzo, ma fra poco ci aspetta qualcosa di biblico, direi, come la storia che è l'arca di Noè. Siamo arrivati alla fine del primo trimestre. Esatto, adesso le pagelle. E poi dopo la pausa torniamo con Noah, la spettacolare arca di Noè di Darren Aronofsky. Di nuovo qua, buon capodanno ancora a chi ci sta seguendo da una mezz'oretta. Siamo arrivati alla fine di marzo della cronologia del calendario 2014 delle uscite al cinema, per regalarvi già delle attese, così voi ve le segnate sul vostro taccuino. Poi tra l'altro chiaramente questa puntata sarà poi reperibile anche in podcast, quindi potete riascoltarvela con calma e prendere appunti. Però benvenuti e buon anno anche a chi si mette all'ascolto adesso, perché noi andiamo avanti, siamo in primavera, siamo ad aprile. Detto che Capitan America The Winter Soldier non si sa ancora bene quando esca, si sa in primavera ma non ha ancora una data certa. Abbiamo detto prima con Luisa Morandini, che è mia ospite qui. Buon anno, ripeto. Ecco, ripetiamo per i nuovi arrivati. Luisa, dicevamo prima, anno nel quale si rispolverano i generi classici epici, il sandalone ma anche il biblico. Guarda un po' questo spettacolare, almeno stando al trailer eccezionale, Noah, cioè Noè. E anche qui lo si fa anche un po' come Pompei, con una firma d'autore. Lì quella di Anderson, qui quella di Darren Aronofsky, con Russell Crowe grande protagonista. Sentiamo. Non si può scongiurare. L'uomo ha corrotto questo mondo e l'ha colmato di violenza. Dobbiamo essere distrutti. Arriva una grande inondazione. Costruiremo una nave per gli innocenti. Pensavi davvero di poterti proteggere da me in quella? Non è una protezione da te. Io ho uomini alle mie spalle e tu sei solo e mi sfidi. Non sono solo. Quando si parla di innovare un genere, no? Qui ci sono due cose. Uno è un impianto quasi fantascientifico, grazie anche agli effetti speciali della Industrial Light and Magic, quindi, come dire, tanta roba. E poi anche il personaggio di Noè, Russell Crowe, è veramente quasi noir, cioè è un personaggio consegnato ai nostri tempi. Se si fa il paragone con il Charlton Heston dei Dieci Comandamenti, ha uno spessore, sembra appunto una psicologia, cioè molto molto più interessante, al di là che Russell Crowe è un attore migliore di Charlton Heston, certo, in generale, ma... No, è molto interessante questo no, è che come dire, rivitalizza appunto insieme ad altri, sì, film di cui abbiamo parlato un po' questi generi. Ridiamoci sopra un pochino. Io, ecco, uno dei film che non vedo l'ora di vedere è questo Gigolò per caso, John Turturro, regista e attore, ma Woody Allen solo attore. Ai livelli di quando faceva solo attore per se stesso, ed è la storia di un mentore di un pupillo, di un uomo, di un giovane uomo come John Turturro che non trova la sua chiave sentimentale, di una sorta di suggeritore dal gobbo come Woody Allen che gli spiega quello che deve fare. Sentiamo. I have a very funny story to tell you. I was at my dermatologist today. She was with her girlfriend, and they came to the conclusion that they both wanted to have a menage. This came out of nowhere. Out of nowhere. And she asked me, do I know anybody? I said, yeah, but it'll cost you $1,000. I was thinking of you. Me. You need the money, and I'm closing shop. I am not a beautiful man. Is Mick Jagger a beautiful man? Ecco, questa battuta l'abbiamo lasciato in inglese, non c'è ancora il trailer in italiano, però è straordinaria, no? Gli dice, ma io non sono, perché devono mettere insieme una sorta di piccola compagnia di gigolò, e allora nell'ambiente ebraico di New York, che non la prende benissimo, e Turturro dice, ma io non ho il physique du role per fare questo mestiere, non sono un bell'uomo. Lui gli risponde, perché Mick Jagger è un bell'uomo. Questa è una battuta straordinaria di Woody Allen. E poi Woody Allen è uno dei comici che non ha perso invecchiando, diciamo, perché il rischio del comico è invecchiando di diventare patetico, di non far più ridere, mentre Woody Allen con i suoi personaggi è sempre meno presente nei film, però funziona perché è la sua comicità di parola, di parola, sì. Quindi non ha bisogno di smorfie o di fisicità, è molto intellettuale, molto cerebrale, per cui no, funziona. No, anche insomma, molto molto interessante. Tra l'altro le due clienti sono piuttosto attraenti, le due clienti potenziali del gigolò, cioè Sharon Stone e Sofia Vergara, scusi, come dire, no, capiamo anche John Turturro. Il 24 aprile arriva sugli schermi The Amazing Spider-Man 2, stavolta quindi sfida Spider-Man Electro. Siamo al sequel del reboot. Quindi, tutto lui è uno dei miei fidanzati. Molto bene. No. Comunque sia, successo assicurato, fuori discussione. Maggio, il mese di Cannes, tra l'altro ad aprile è atteso anche The Avengers. Tra l'altro qui me lo danno la stessa settimana di Spider-Man, a me sembra una boiata pazzesca, ma non so se succederà, penso che si tratti di date provvisorie sulle quali lavoreranno, perché che due film da fumetti così importanti escano lo stesso giorno. Avengers è il caso di un altro concentramento di personaggi e attori. Un altro importanti, dicevamo maggio che si apre nel segno di Godzilla. Wow. Signori, sarete inviati sul posto con un lancio Halo. Mi rendo conto che non tutti fra voi hanno l'adeguata esperienza. E francamente nessuno di noi ha mai affrontato una situazione di questo tipo finora. Questo barrito inquietante di questo Godzillone creato al computer graphic. Altro reboot, anche qui. Sì, Godzilla, anche qui aveva già avuto i remake e tutto, però ogni tanto c'è bisogno di Godzilla. Così, insomma. Abbiamo bisogno di essere un po' spaventati da enormi entità. Sarà un periodo, tra l'altro, di fumettoni. Abbiamo detto The Amazing Spider-Man 2, The Avengers, Capitan America in primavera, lo stesso Godzilla, se vuoi lo metto in quel genere lì, e il 22 maggio X-Men, Giorni di un futuro passato. E quindi, come dire, Wolverine era un tuo fidanzato, della verità. Lo è tuttora, forse. Forse sì. No, credo che sia il mio amante segreto. Ecco, Hugh Jackman, come dire. So che spopola. spopola Hugh Jackman la grande. Sì. 22 maggio quindi X-Men, ci aspettiamo qualcosa di diverso. Marvel, fonte inesauribile di spunti per il cinema, è grandioso ogni volta che ci si pensa. X-Men sì, è un altro delle molto divertenti, sono tutti. No, no, molto molto, ecco, vedete, questa qui è una parte, ovviamente in questa fase della stagione non abbiamo ancora le date certe di uscita del cinema italiano, del cinema d'autore europeo, perché quelli che ci hanno già dato, che sanno già quando uscire, sono i colossal ovviamente americani, quindi claro, è normale che vi segnaliamo questo, non è che non ci sia tutto il resto del cinema, però come vedete insomma è un 2014 che sembra avere parecchia carne al fuoco, come tanto. Io stendendo questa lista mi sono reso conto che quelli che sono i film da aspettativa del botteghino sono tanti e rischiano tutti di fare, secondo, rischiano fra virgolette di fare molto successo. Sì, sì, sì, finora poi abbiamo parlato appunto di grandi film di grande pubblico. Mi stavo chiedendo anche gli italiani se stiamo aspettando, a parte Virgì, qualche cosa non mi vengono in mente. Forse dovrebbe uscire Moretti, ma molto più in là. Moretti più in là. Però sai, il cinema italiano adesso, se tu escludi, parlo di aspettative del pubblico ormai, sì. Però se tu escludi Sorrentino, Garrone, Moretti, appunto Virzì, che può parlando sempre... Parlando di qualità, sì. Parlando di qualità, Virzì che può sempre metterti dentro un film fatto bene anche con potenziale economico, eccetera. Insomma, sono 6, 7, 8 i registi, sì, italiani che la gente aspetta, in quanto perché tali. Perché Olmi sta girando un film, però a parte chissà quando, se non sappiamo quando uscirà, è bell'occhio. E ormai Olmi, che è, per me è un maestro di vita e di cinema, però è oggi non è un regista che fa 10 milioni di euro, fa neanche 4. È un regista di nicchia, di una grande nicchia, un maestro che va visto, purtroppo, io lo dico purtroppo, non perché non meritassero i suoi film, però perché oggi la distribuzione, purtroppo, tutta questa roba di cui stiamo parlando è quasi tutta roba da multiplex. Claro. La vera sofferenza, noi ne abbiamo parlato spessissimo, quella Rosa Purpura, è quasi una nostra battaglia, è quella delle sale di città, delle sale dei centri cittadini, e non solo e non più dei centri cittadini delle piccole città di provincia, dei piccoli capoluoghi di provincia, ma anche delle grandi città, cioè anche il centro di Milano, anche il centro di Roma oggi cominciano a soffrire la crisi del cosiddetto monosala o del multisala di città, che è poi la sede naturale per vedere quel cinema. Il cinema europeo, il cinema italiano, eccetera, no? Vedremo adesso cosa succederà con chiudono ancora sale di nuovo, ancora in più. E quindi è un disastro, perché questo è una desocializzazione dei centri cittadini che diventano un mortorio molto spesso, e soprattutto io sono e rimango convinto che non sia figlio di una mancanza di domanda, sia figlio di logiche sbagliate sotto il profilo proprio di carattere economico, basta, cioè quanto costa mantenere quel tipo di sala, perché molti successi cittadini dimostrano invece il contrario, dimostrano che il pubblico c'è per quel cinema e per quelle sale, che è disposto ad andarci e che le puoi gestire anche in maniera fruttuosa. Ci sono dei casi addirittura clamorosi, senza arrivare al mitico Messico di San Cassani qua a Milano. Ma anche lo stesso Apollo in centro, voglio dire, certo. A Milano ha il suo pubblico, ha la sua fascia, eccetera, però è passata questa cosa, forse chissà, ne abbiamo parlato spesso, andremo a mettere le targhe fuori dai cinema chiusi, continuiamo a parlare, qui una volta c'era un cinema, noi continueremo sempre a parlare, convinti come siamo che che il film diventi film sul grande schermo della sala. Poi dopo c'è tutto il resto e va bene. Va benissimo, però lì è lì che succede il cinema, sì. Non da un'altra parte. Detta questa, che adesso possiamo farci eleggere anche qualche sindaco, andiamo avanti. Perché siamo in maggio. Andiamo avanti a maggio, siamo quindi appena finito il Festival di Cannes, chissà che cosa ci porterà anche il Festival di Cannes dell'anno prossimo. 28 maggio arriva una straordinaria Angelina Jolie, cattivissima per la Disney. È un riadattamento della Bella Addormentata nel Bosco, però al centro del film c'è la figura di Malefica, questa giovane strega che però, voglio dire, ha le sembianze di Angelina Jolie. Averne di streghe così, sentiamo. Io so chi sei. Vieni su di me da tutta la vita. Non avere paura. Io non ho paura. Allora mostrati. Tu avrai paura. È Bella risata malefica. Voleva fare concorrenza alla strega di Biancaneve, forse, Angelina, che era Charlize Theron, un'altra grande. Assolutamente, bella. Assolutamente. C'è questa, anche questa vena, questa lettura, questa... no? C'è la grande bella, la bellezza che accetta. Che però adesso la metti dalla parte del male, perché parliamoci chiaro: molti di noi hanno detto, magari in età un po' più adulta, che insomma nella storia di Biancaneve quella veramente gnocca era la strega, cioè, sì, non, c'è paragone, non c'è paragone. E quindi in questo caso Maleficent proprio ci racconta questo, no? Ci racconta Angelina Jolie che chissà che storia racconterà ai suoi sei figli, Angelina, cioè, dopo questo ruolo. Allora, diamo la linea alla regia, perché dobbiamo sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo e siamo di fronte all'estate cinematografica, questo grande mistero tutto italiano, cioè per due mesi c'è il fermo biologico, come nella pesca, qualcosa si muove e si muoverà anche quest'anno grazie a qualche colossal, ma fra un po' ne parliamo con Luisa. Insomma, il tema è possibile rivitalizzare veramente quest'estate italiana? Tra l'altro sarà l'estate dei mondiali, che sono un grande concorrente per il cinema, ma insomma ne parliamo fra poco. Eccoci, è estate, buongiorno, Capodanno, buon anno, è estate. Noi siamo in giugno, luglio. Esatto, quindi... siamo in estate, improvvisamente, nel nostro excursus in anticipo per quanto concerne i film che escono nel 2014, cosa aspettarsi, cosa attendere anche con un filino di ansia. Ecco, siamo arrivati alla famosa estate. Dicevamo prima di chiudere, Luisa, l'estate negletta del cinema italiano, sono 20 anni che sento, forse tu qualche cosina anche di più, che sento il dibattito, no? L'estate, bisogna fare delle uscite, fatto dei tentativi, sì, però, dei tentativi che sono però sempre il colossal, cioè sì. Giustamente le major capiscono che se non c'è nessuno che mette i film lì, tu metti un film e porti a casa 17-18 milioni di euro, quindi cioè, forse ne vale la pena, no? Però insomma quest'estate vuoi anche per la compresenza dei mondiali da metà giugno a metà luglio, e sappiamo che gli esercenti temono tantissimo i mondiali, proprio come l'acqua fuori dal parrucchiere per le donne, ovunque nel mondo, in Italia in particolare. Al momento non è che si attenda un'estate clamorosa, ovviamente, no. Un paio di colossal di fumettosi o comunque di azione. Il 24 luglio Transformers, tornano in azione i robottoni di Michael Bay, i primi due, soprattutto il primo, forse il primo. Non era stato malissimo, no, poi alla fine 24 luglio quindi Transformers Age of Extinction, questo è il titolo originale. 31 luglio, la settimana dopo, sequel dell'Alba del pianeta delle scimmie, anche qui siamo al sequel, lì, del reboot dal del 68 col primo a oggi, io, continuano le scimmie. Io ti dirò, quando vedevo Charlton Heston a ridaie che si inginocchiava davanti alla statua della libertà mezza sepolta, piangevo, cioè, sì, beh, è stata un'emozione quando scopre la statua, che mi sconvolse, sì. Era un tutti film veramente eccezionale. È un colpo di scena finale notevole. Ma poi anche questo mondo ormai sommerso di un futuro che è sempre la tua terra. Io trovo che quello fu veramente un film dirompente per la fantascienza di quegli anni. Poi dopo questa serie di remake, già quella di una decina d'anni fa, adesso siamo tornati fuori, insomma. Però ecco, il film c'è, gli amanti ci sono, il 31 luglio c'è molto spazio al cinema, ecco che arriva anche Down, il seguito dell'Alba, of the Planet of Apes. Cos'è, la mattina del pianeta delle scimmie. Sì, è una roba, c'è l'alba del... No, ma poi ormai siamo al sequel del prequel del reboot. Del reboot, cioè, è incredibile. Però fra i film di luglio, io, che sono un ragazzo degli anni 70, amo molto i Muppet. E allora, Muppets Most Wanted, sentiamo il trailer. The world's greatest criminal has stolen the greatest treasures, escaped the greatest prisons, and he bears a strong resemblance to someone you know. It's not easy being mean. It's Constantine, the world's most dangerous frog. Check this out! Oh, look, it's Kermit! What did you do with Kermit? Oh, my friend. My name will go down in history as greatest thief of all time. You mean our names, right? Of course. My name first, then spacebar, spacebar, spacebar, your name. Hit it, boys. Ridi. Rido perché dicono le boiate, certo. Rido, capito? Cioè, Muppets Most Wanted 10 luglio, ovviamente solo trailer originale perché siamo molto in anticipo, insomma, per tutti gli amanti di questi pupazzi di pezza ne vale la pena. Se tutto resta invariato, anche Fast and Furious 7, che dopo la morte recente di Paul Walker ha subito uno stop alle riprese, dovrebbe uscire proprio in quel periodo, chiaramente date che rimangono a questo punto da confermare dopo quella tragedia, però sempre nel segno invece del peplum che si rinnova, il 13 agosto il muscoloso Dwayne Johnson sarà il protagonista di Hercules The Trashan War, diretto da Brett Ratner, e ancora una volta sulla scena ci sono le gesta del figlio di Zeus, come dire, però molto molto mixato col graphic novel. È giunto sulle nostre coste! Ecco a voi Hercules! Non mi fermerò finché non avrò riportato la principessa e vendicato i miei fedeli amici. Hercules, tu sei il figlio di Zeus. Abbraccia il culto di tuo padre e scoprirai poteri che mai avresti immaginato. Io amavo molto l'Hercules della Disney, che trovo sia uno dei più bei musical della storia. Infatti mi sono meravigliato che non abbiano ancora fatto una versione, almeno io non l'ho vista, musical live, perché ha delle canzoni straordinarie. E questo, Ma non lo so, io sono sempre molto affascinata, devo dire, della mitologia, dei personaggi. Io dai Muppet. Mentre ascoltavamo questo stavo pensando che invece un genere di cui si vede molto poco, anche nel 2014, è il bellico. È vero, è vero. Ultimamente tentativi di rivisitazione d'autore, vuoi da Tarantino in poi, insomma, tentativo di, sì, il bellico, ma per rivisitarlo, però effettivamente pochi. È vero. Cioè, hanno smesso di continuare a soffrire sul Vietnam, certo. Gli americani. Però sì, qualcosa è uscito, ma è un genere che forse anche magari tira un po' meno anche in sala, quindi chi lo sa, potrebbe, ma poi è tutto ciclico, poi c'è stata la rivisitazione delle western, a volte tornano, stanno lì, sembra che fanno solo quello, poi scompaiono di nuovo, insomma. Però io so che tu hai messo sul tuo iPhone una piccola suoneria, una sveglia per il 26 agosto, certo. Io lo so, perché il 26 agosto Batman incontra semena con Superman di Zack Snyder, con Ben Affleck e Henry Cavill. Cosa attendersi? Non lo so, Ben Affleck come Batman, insomma, cioè, no, ma poi c'è quella faccia da patatone, poi come si diceva, c'è due espressioni, la A e la B. Esatto. No, adesso ha anche la C, è un po' cresciuto, però Batman è il re del noir. Di qualcosa di svelato, dell'inquieto, eccetera, no? Però siamo arrivati alla fine di agosto, ci resta qualcosa da dirvi per l'autunno, perché dopo Venezia, però ovviamente qualcosa ha già delle date fissate, e io forse peggio di Ben Affleck che fa Batman, ci sono le 50 sfumature di grigio che ci attendono. Tu pensa cosa sarà la campagna per promuovere? Non lo film. Voglio pensare. È due anni che ne parlano e adesso finalmente ha una data, sembra 18 settembre 2014, dopo le vacanze, riniziata la scuola, 50 sfumature di grigio dal bestseller erotico di A.L. James. Siamo ancora a queste. Ma tu l'hai letto il libro? No, mica tempo da perdere. Esatto. L'ho sfogliato un giorno in stazione, c'era un treno in ritardo, e avevo sfogliato tre pagine e ho detto, ah sì, ho capito, ho fatto bene. Fantastico. Ma basti anche forse pensare alla fatica che hanno fatto a trovare il protagonista, che poi è mezzo signore suo, cioè non è uno, voglio dire, un nome di primissima linea. Sì, non mi ricordo, lei è la figlia di Melanie Griffith, ma sì, lui chi era? È lui adesso, il nome, è uno che viene dal mondo delle serie, dei telefilm, per carità, però voglio dire, non sono riusciti a metterci Brad Pitt, per intenderci, o roba del genere. No. Quindi questo un po' ci fa dubitare, avremo molto tempo per vederlo, per parlare, eccetera. 18 settembre. C'è 50 sfumature di grigio. Poi vi voglio segnalare un paio di cosine dell'inverno, perché sono due terzi capitoli. Nuovi capitoli di film che adesso sono in sala e che possono essere anche film che potete vedere adesso appena finita la trasmissione alle 18, andate al cinema. E uno è Hunger Games, l'ultimo capitolo della saga, Il canto della rivolta, parte 1, perché anche qui hanno splittato come fecero con Harry Potter, così si guadagna di più. Però insomma, ormai io quando c'è Jennifer Lawrence in un film vado a vederlo. E poi a me ha Hunger Games piace. E quindi Hunger Games, Il canto della rivolta, parte 1, 20 novembre, 17 dicembre, abbiamo finito il giro dell'orologio con il prossimo Natale, Lo Hobbit, racconto di un ritorno. Adesso vedete il secondo, se non l'avete ancora visto. E ti è piaciuto il secondo? Un po' lungo. Eh sì, dai in taglio, esatto. Non sarebbe. Comunque sappiamo che qui c'è cast, c'è pubblico, c'è tutto. 17 dicembre, c'è anche Natale, e quindi sarà così. I fedeli ci vanno. E allora, Luisa, io ti tengo qui ancora due minuti. Tanto ormai abbiamo quasi finito, ma non abbiamo finito. Salutiamo invece Claudio Pofi, che è in collegamento con noi, perché il nostro super espertone di un video e di tecniche dell'on video ci fa un po' un racconto di quello che sarà il 2014 sotto il profilo dell'on video. Software e hardware, cioè da una parte quello che è i film che vedremo, in che edizioni li vedremo, in che condizioni li vedremo, e poi anche su quali apparecchi tenderemo a vederli. Buongiorno Claudio e buon anno anche a te. Ciao Franco, buon anno a voi e agli ascoltatori. Sì, nel 2014 vedremo proseguire le uscite a un video ancora su DVD, che è un supporto sempre considerato molto dal consumatore finale, sicuramente anche su Blu-ray alta definizione per coloro che desiderano sfruttare al massimo le potenzialità dei televisori ad alta definizione 2K, che sono ormai molto diffusi nelle case degli italiani. Il mercato nostrano vede più che mai una massiccia presenza di materiale in alta definizione, disponibile anche attraverso il digitale terrestre, via satellite, diciamo la qualità video, e ancora di più quell'audio non è e continuerà a non essere paragonabile a quella ottenibile da un disco Blu-ray di alta qualità. Il guaio è che anche nel nostro paese non tutti i titoli sarebbero qualificati per essere offerti su Blu-ray, qualche distributore ci prova comunque con una resa più simile a un DVD, quindi speriamo che titoli come Solaris di Tarkovsky, piuttosto che Ci rivedremo all'inferno di Peter Hunt del 76, in uscita a gennaio saranno degni del Blu-ray su cui verranno riproposti. Detto questo, ricordo che per i dischi preregistrati in alta definizione c'è stata un'ulteriore spinta grazie al lancio sul mercato delle nuove console per videogiochi, l'Xbox One di Microsoft, che finalmente monta al suo interno un lettore Blu-ray, e la PlayStation 4 di Sony, che però al momento, ricordo, non è compatibile con il Blu-ray 3D come invece lo è la PlayStation 3. A proposito di dischi tridimensionali, i nuovi titoli a disposizione continuano ad essere sempre molto limitati, con qualche operazione un po' dubbia come il recente L'ultimo imperatore di Bertolucci. E infine ricordo che il 2014 dovrebbe essere l'anno dei televisori 4K, quelli 4 volte l'attuale alta definizione, possibilità di vedere meglio sicuramente gli attuali Blu-ray 2K, in attesa che siano disponibili le prime trasmissioni broadcast via satellite e poi forse su digitale terrestre. Sempre per il 4K non è da escludersi la possibilità che verranno lanciati sul mercato nuovi lettori Blu-ray e nuovi dischi da 100 giga con costi che all'inizio saranno come sempre stellari e di estrema nicchia. Beh, che poi pian piano di solito si abbassa. Insomma, ho capito che sarà un anno dove si può lavorare molto sull'alta definizione. Il 4K, il sistema con cui oggi si proietta il cinema, diventa sempre più vicino, diciamo, il sogno di un cinema in casa, anche se le dimensioni contano, come diceva Godzilla, e quindi ecco perché la sala rimane assolutamente, assolutamente fondamentale e centrale per chi ama il cinema. Grazie Claudio, ancora un buon anno, grazie anche a Luisa Morandini, buon anno. Che è stata davvero, ci vediamo stasera, splendida nelle sale. Oggi nel raccontarci un po', abbiamo fatto una bella carrellata, una bella corsa, però penso che di temi sul tavolo ne abbiamo messi tanti per un 2014 al cinema. Sì. Eh? Andiamo nelle sale, stasera ci incontriamo sicuramente a partire da adesso, tutti fuori di casa, tutti in sala al cinema. Grazie ancora, grazie. Noi ci sentiamo sabato alle 16, buon anno, sabato alle 16 La Rosa Purpurea come sempre per raccontare i film del weekend. Un saluto da Franco D'Assisi.